Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Summertime. Noi andiamo a Ricadi, dove debutta al Grecia Teatro Festival Lisistrata, interpretata da Gaia De Laurentiis. Buongiorno Gaia, che cosa vuol dire confrontarsi con questa eroina scritta e dipinta da Aristofane? Buongiorno, intanto è una splendida occasione perché è proprio una prima donna. Di ruoli belli in teatro ce ne sono tanti, ma la possibilità di fare proprio una prima donna forte come Lisistrata e vitale come Lisistrata è una cosa, insomma, che non capita tutti i giorni. Ed è un personaggio divertentissimo perché è una condottiera, è una, appunto, estremamente vitale, che decide, intanto è una commedia, perché purtroppo ho visto scritto Tragedia di Aristofane, invece è proprio una commedia. Tragedia di Aristofane è un pochino, no, un'eresia. L'ho visto scritto in vari giornali, invece è una commedia estremamente divertente, è questa donna che decide di salvare la Grecia dalla guerra e riunisce tutte le donne e le convince con un giuramento a fare lo sciopero del sesso, pensando che gli uomini ragionano solo con questo, e tramite lo sciopero del sesso portare gli uomini a fare la pace, e ci riesce. Ricordiamo che la commedia di Aristofane, a parte che veniva scritta, no, e lui partecipava poi ai concorsi, per cui doveva vincere rispetto agli altri commedianti. Il ruolo del teatro poi all'epoca era proprio un ruolo fondamentale, politico, perché attraverso poi il teatro, appunto, si faceva politica, un ruolo importantissimo nella società greca dell'epoca. Ben 400 anni prima di Cristo, tra le altre cose, durante la guerra del Peloponneso. Ma Aristofane ha sempre questo sguardo, se così vogliamo parlare, nei confronti delle donne, no? Tant'è vero che lui criticava Euripide perché diceva che era misogino, insomma. Quindi... Ma veramente Aristofane passa per essere misogino? Lui stesso. Lui stesso. Mi ha stupito molto perché perlomeno in Lisistrata sembra non avere grossa stima degli uomini, questo fondamentalmente, per cui mi ha stupito. Però passava per essere un misogino Aristofane. Però poi nelle sue commedie in realtà non è così, no? Perché Lisistrata è la prima pacifista della storia dell'umanità. Sì, sì, sì, decisamente. Qual è la battuta che ti piace di più, il momento della commedia che cui tu più ti trovi a tuo agio? Guarda, ce ne stanno... È buffo perché in ogni spettacolo poi c'è un momento che trovi più ostico, che ci metti di più a capire, così a passare l'ostacolo. Cioè, rimangono sempre... c'è qualche buco che poi andando avanti nelle repliche riesci a colmare, a capire... ecco, invece in Lisistrata è stato tutto estremamente, non voglio dire facile, però è venuto tutto da sé. L'unico problema grosso che ho trovato all'inizio è che lo trovavo in alcuni momenti terribilmente retorico. Allora, così lavorando con Stefano Artissunchi, il regista, abbiamo capito anche abbastanza velocemente che l'unico modo per affrontare questa retorica, che effettivamente c'è, non è quella di evitarla, ma di buttarsi fino in fondo. E soprattutto, avendo moltissime scene comiche, proprio divertenti e comiche, questo ti permette poi nelle due scene, una soprattutto più drammatica, il monologo, di buttarti fino in fondo. Te lo puoi permettere di rischiare di essere anche retorica, proprio perché tutto il resto va a drammatizzare, a ironizzare su tutto. Per cui in mezzo a tanta ironia, a tanto scherzo, quando ti devo dire una cosa te la dico chiara e tonda, senza mezze parole. Per cui sciagurate noi che mandiamo i nostri figli, li partoriamo e li mandiamo a morire. Proprio buttarsi fino in fondo senza aver paura della retorica. Ecco, forse per questo magari Aristofane si intende, come dicevi tu, non femminista. Perché? Perché ovviamente le donne di Atene non combattono per la parità dei sessi, loro combattono affinché i loro uomini non muoiano in battaglia. Quindi questo c'è una visione. I loro uomini, e fondamentalmente, perché poi viene detto una volta sola nello spettacolo, ma credo sia il nodo di tutto, i loro figli. Perché la maternità, che è fondamentale quando si parla della donna, a prescindere dal fatto che ne abbia o non ne abbia, che ne voglia o non ne voglia, comunque questa la capacità che ha in sé di procreare, e questo fa la differenza enorme. E c'è un punto in cui lei parla della maternità, che secondo me è un punto cruciale, perché cambia la visione totale sul mondo, da sempre, dai tempi fino ad oggi, da Aristofane ad oggi, questo che fondamentalmente non è mai cambiato. Quindi insomma è una visione ovviamente tradizionalista, però intanto lui fa combattere questa battaglia dei sessi a un'eroina femminile. E un'altra cosa, il suo linguaggio, che alle volte può apparire scurrile, no? Oggi, nella Atene di quel tempo era normale, questo un po', no? Sì, c'è anche questo. Ma anche oggi, poi insomma, visti i nostri tempi, di scurrile c'è molto poco in Aristofane, anche perché così come l'ha affrontato Artie Sunk, a parte appunto che c'è del cabaret, c'è un miscuglio di generi, ma ricorda anche parecchio la commedia dell'arte, che è terribilmente scurrile, dove i sentimenti erano proprio quelli più animaleschi, per cui la fame è la fame, il sesso è il sesso, con tanto di simboli fallici evidenti, e tutto questo è stato evidenziato, e questo non rende lo spettacolo scurrile, assolutamente. Parliamo infatti della messa in scena, no? Allora, come appare la scena, come sono Dunque, i costumi? Intanto sono Lisistrata è l'unica donna, e le altre donne sono fatte da uomini. In tutto siamo quattro personaggi in scena, tre uomini e una donna. Fedeli poi a come era all'epoca, perché le donne assolutamente non recitavano e non so neanche se potevano andare a teatro. Quando si parla del coro donne e coro uomini, all'epoca era comunque sempre fatto da uomini. E poi c'erano le maschere, che erano le maschere della tragedia, le maschere della commedia, no? Quindi non si vedeva il volto. Queste bambole, queste pupazze, molto inquietanti, con questi occhi di fuori. E infatti quando le ho viste la prima volta sono rimasta perplessa, perché mi sembravano molto inquietanti e drammatiche. In realtà cambiano molto a seconda dei momenti e vivono tantissimo in scena, per cui possono essere a momenti terribilmente comiche e a momenti terribilmente drammatiche. Questa cosa mi ha colpito molto, perché sono particolari queste pupazze. E ce n'è tante in scena, non so se sono 15, 16, sono moltissime, e sono loro poi che fanno il popolo delle donne, mosse da questi due attori vestiti da donna. Quindi insomma poi alla fine queste donne tanta indipendenza ancora non l'avevano. Senti, quanto dura lo spettacolo? Tu hai parlato di generi che si mischiano, no? Tra commedia greca, commedia dell'arte. Che richiama Kurt Weill, commedia dell'arte, poi c'è una parte estremamente moderna, perché poi Lisistrata ha un'immagine abbastanza moderna, proprio fisica, un linguaggio che mescola appunto l'antico e il moderno, e il tema della guerra fondamentale nello spettacolo, che ahimè ci riguarda oggi e ci riguarda da sempre, e il regista poi fa un brusco passaggio al presente nel finalissimo dello spettacolo, che è un bel pugno nello stomaco. Quindi non è solo la guerra tra spartani ed ateniesi, ma diventa anche le guerre che combattiamo oggi. Le guerre da sempre, sì. Cioè, Lisistrata a un certo punto dice, adesso abbiamo che l'uomo stia accanto alla donna e la donna accanto all'uomo, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ottenuto la pace, festeggiamo stando ben attenti per l'avvenire a non sbagliare ancora. E quanto abbiamo sbagliato. È proprio così. Allora ricordiamo l'appuntamento con Gaia De Laurentiis, che interpreta Lisistrata, una commedia di Aristofane, e con la regia di Stefano Artie Sunk, due bravissimi attori che sono Stefano Totoni e Giampaolo Valentini. Allora andiamo tutti quanti a Ricadi a vedere, proprio al Grecia Teatro Festival, questa Lisistrata. Ricordiamo poi il 19 agosto a Locri, il 20 agosto a Palmi. Grazie Gaia. Grazie a te. Thank you. Summertime. Andiamo subito al Globe Theatre a Villa Borghese, dove fino al 28 agosto c'è in scena la dodicesima notte di William Shakespeare. E come al solito, una delle protagoniste che passa da Sogno di una notte di mezz'estate alla dodicesima notte, così d'incanto, è Claudia Balboni nel ruolo della contessa. Buongiorno Claudia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come va? Come va questa nuova rappresentazione? Beh, non lo so, lo dirà il pubblico quando lo vedrà, però insomma noi siamo molto contenti perché la commedia è una bellissima commedia, divertente, anche molto romantica, quindi insomma ci piace farla. E diciamo che per incanto passo da un ruolo all'altro, ma insomma mica tanto, perché io poi non sono veramente una fata, quindi siamo molto stanchi, ci stiamo preparando insomma lì al Globe, dove di giorno fa piuttosto caldo, e insomma comunque siamo molto contenti perché è stata una bella esperienza quella di fare tutto il mese d'agosto praticamente con la stessa compagnia due commedie diverse, proprio come si faceva una volta, che la stessa compagnia faceva più spettacoli, insomma. Quindi insomma siete ritornati all'epoca shakespeariana, quando Shakespeare al Globe Theatre metteva in scena l'Amleto oggi, Romeo e Giulietta, esatto, domani. È proprio un repertorio, diciamo, dove in effetti i ruoli sono veramente interscambiabili, perché c'è l'attrice giovane, c'è il primo attore, ci sono i caratteri, insomma esattamente come nel Sogno di una notte di mezz'estate, quindi siamo qua e speriamo che piaccia anche al pubblico. Lo spettacolo è mi sembra molto molto ben riuscito, ecco tutto. Spero che lo decida il pubblico, ma insomma che abbia un successo. Tutto questo è una produzione Politeama, come sì. Era una produzione Politeama Sogno di una notte sì, di mezz'estate, sì, quindi sì. Questa è un po' la caratteristica. Io sento proprio sì. Da vera teatrante, tu hai dietro tutti quanti i rumori del teatro che viene montato e smontato. Allora, esatto. Parliamo di questa commedia, no? È la dodicesima notte, che ha come sì. Tema un pochino l'interscambiabilità dei ruoli, sì, il doppio, sì. No? Beh, dunque, e la dodicesima notte è anche chiamata la notte dell'Epifania, c'è anche ci sono delle divergenze sul significato di questo testo, perché la dodicesima notte, se uno conta dalla notte di Natale, è proprio la notte della Befana, però l'Epifania si può anche intendere come notte dello svelamento. In effetti ci sono dei personaggi, Viola in particolare, Sebastiano, che sono naufragati su un'isola, in Liria, è un'isola che diciamo si potrebbe collocare tra la Turchia e la Grecia, naturalmente un'isola immaginaria, però orientale, per come si poteva pensare orientale naturalmente in epoca shakespeariana, e dove vivono personaggi di tutti i generi, tra cui appunto questa contessa Olivia e il duca Ursino, che è il, diciamo, il reggente di quest'isola. Poi ci sono personaggi vari, tra cui il grandissimo maggiordomo di Olivia, che è Malvolio, che è un personaggio chiave dello spettacolo. Ecco. Lo spettacolo, al contrario del Sogno di una notte di mezz'estate, ha una linea retta, cioè non ci sono molte storie intersecate, cioè praticamente un'unica situazione nella quale però ci sono molti personaggi che vivono una loro storia. Lo svelamento è quello proprio della giovane Viola, che sbarcata sull'isola si mette panni maschili per non cadere in tranelli, cose varie, e naturalmente questo travestimento porta a una serie di conseguenze che non sto a raccontare, insomma, per non rivelare tutto, però è molto, molto affascinante. Ecco, quindi questa dodicesima notte è la notte in cui tutto viene svelato. Senti Claudia, tu passi dalla regina, no, delle fate da Titania nel Sogno di una notte di mezz'estate alla contessa. Come sono questi due ruoli? Beh, sono molto, diciamo, da un punto di vista del fisico, del ruolo, sono due prime donne, quindi diciamo è il mio ruolo. Però da un punto di vista invece sia psicologico che di tipo recitativo sono molto diversi, molto lontani, perché una appunto è la regina delle fate, quindi ha comunque un'astrazione, un essere comunque al di sopra, diciamo, della realtà, anche dovuta al fatto che viene recitata sempre con i versi, eccetera, eccetera, che la pone un po' così, un po' cammina un passo sopra la terra, e volitiva, eccetera, e poi ha questo bellissimo cambio quando praticamente viene stregata da Oberon, in cui diventa una specie di animale, diventa molto sensuale, buffa, è una specie di animale. Invece Olivia è una persona a tutto tondo, con una, tra l'altro, con una potenzialità moderna molto forte, perché Olivia è una donna alla quale è morto il fratello e il padre, decide per molto tempo di non prendere marito, in effetti più che per portare il lutto, perché lei vuole essere in prima persona quella che decide del suo destino. Quindi, insomma, è una donna molto moderna sotto questo punto di vista, e anche lei che più che farsi corteggiare corteggia, quindi ha una, diciamo che c'ha una mutazione, diciamo, il personaggio che io trovo contemporanea, insomma è una donna come potremmo essere noi, l'unica differenza è che sta lì su quest'isola tra la Grecia e la Turchia. Allora noi lasciamo Claudia a questa nuova interpretazione. Abbiamo sentito che la stessa compagnia al Globe Theatre ad agosto, sì, prima Il sogno di notte, sì, mezza estate, e poi La dodicesima notte, andiamo sempre sentire con la regia di Riccardo Cavallo per tutti e due gli spettacoli, quindi insomma la mano è questa. Ok, e andiamo a sentire poi Gerolamo Alchieri. Grazie Claudia. Sì, Gerolamo Alchieri. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao, allora ciao. Arrivederci. Quando poi divenni un uomo forte, sotto la pioggia e al vento. E adesso invece appunto sentiamo Gerolamo Alchieri che interpreta Feste. Abbiamo parlato anche con Claudia di questa fatica di avere una unica compagnia che interpreta due commedie al Globe come ai tempi shakespeariani. Come sta andando, Gerolamo? Beh, faticoso ma molto molto soddisfacente, insomma questi 10 giorni del sogno sono andati benissimo, abbiamo avuto una media altissima di spettatori, il pomeriggio provavamo la dodicesima notte, quindi era un po' faticoso. Ma... Senti, insomma... allora, il tuo personaggio è Feste, come lo collochi e che com'è diverso rispetto al personaggio che interpretai per Sogno di una notte di mezza estate? Perché ci fa molta curiosità questo fatto che avete fatto un po' gli shakespeariani veri, gli elisabettiani veri. Sì, nel teatro vero poi, quello elisabettiano, che è un luogo magico il Globe. Ma dunque Bottom nel Sogno di una notte di mezza estate è un comico, un attore comico amatoriale di bassa lega che viene poi trasformato in asino dalla magia di Oberon e con le fattezze dell'asino fa innamorare di Tania. Quindi è un ruolo molto divertente sia quando fa il comico e sia quando fa l'asino, insomma. E poi ha anche un suo momento di poesia in un monologo quando si risveglia. Feste è il buffone della contessa Olivia, quindi è un altro personaggio comico, ma più che comico è sarcastico, è un vecchio buffone, ormai probabilmente alla fine della carriera, che gioca più con le parole che con il corpo, diciamo, mentre altri buffoni magari fanno i salti mortali, io non ho più l'età per farli, e poi non sono mai stato capace a farli. Invece questo è un buffone, un corruttore di parole, così lui si definisce, e mi piace molto, poi è molto malinconico e poi mi piace molto perché canta, è una sorta di menestrello. Che cosa vuol dire recitare così a breve distanza due ruoli in una commedia di Shakespeare che diventa, in due commedie di Shakespeare che però diventano una grandissima commedia? Ma io l'altra sera stavo facendo Bottom in attesa, lì steso fintamente addormentato in attesa di un monologo, e ho pensato, che è un bellissimo monologo, e ho pensato in questi 400 anni quanti attori in tutto il mondo avranno detto queste parole, però questa sera le dico io in questo teatro magico, e quindi sono solo mie questa sera, sono solo mie e di chi le ascolta, e mi sono sentito un grande privilegiato, insomma, è un grande privilegio. mi sento molto fortunato. Ecco, una domanda invece di curiosità, no? Il Globe finirà con il Riccardo III, quindi una tragedia, però generalmente si scelgono commedie, per quale motivo? Cioè, perché non rappresentare per esempio l'Amleto? È un po' dura, tu dici, durante l'estate? Probabilmente sì, era questa la domanda, dovresti girarla al direttore artistico che è Gigi Proietti. Sicuramente diciamo per l'estate, per il palcoscenico estivo, la commedia diciamo è tradizionalmente più adatta, insomma, però appunto conclude con Riccardo III, che è tutt'altro che commedia, e quindi non è detto che presto non si vedrà un Amleto. Al Globe, un Amleto al Globe è dura, anche perché l'Amleto quante ore sono? 4? Se lo fai tutto sono più di 4, sì, però abitualmente in teatro si taglia, insomma, a parte Branagh che nel film l'ha fatto tutto intero, ma poi ha fatto anche un'edizione più corta per le sale, insomma, perché non tutti erano disposti a sorbirsi 4 ore e mezza di Amleto, che peraltro era bellissimo anche quando, nella versione lunga. E senti, la 12ª notte quanto dura invece? La 12ª notte dura un'ora e un paio di ore, insomma, con un intervallo. Grosso modo un paio d'ore, 1:45, 1:50. Il sogno invece è un pochino più lungo. Il sogno era un pochino più lungo, sì. E che qual è il riscontro del pubblico? Allora, ovviamente non sarà il pubblico elisabettiano che mangiava i polli, no? E beveva birra mentre guardava la rappresentazione, però insomma, qual è il contatto di questo pubblico che poi è molto vicino, no? Perché c'è la platea che quasi è a contatto. Sì, io ti dico, sono innamorato di questo posto, perché sei circondato dal pubblico, ce l'hai sopra, sotto, di lato, ovunque, ed è molto bello. Poi è frequentatissimo dai giovani, nel parterre, nella parte in platea, diciamo, è sempre pieno di giovani, e questo fa molto piacere, insomma. La risposta del pubblico al sogno è stata a dir poco entusiasmante. Quando abbiamo fatto 6 anni, 7 anni fa ormai, La 12ª notte era andata benissimo anche quella, quindi speriamo che continuino a favorirci con risate ed applausi. Allora, ricordiamo l'appuntamento dal 18 al 28 agosto, la 12ª notte, sempre con la compagnia Politeama, e ringraziamo anche Gerolamo Alchieri e Claudia Balboni che ci hanno intrattenuto con questo teatro al Globe Theatre, fatto proprio alla vecchia maniera di Shakespeare. La stessa compagnia mette in scena 2 spettacoli per tutto agosto. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Summertime. Un'altra notte carica di nuvole, un fuoco, un desiderio, è il buio intorno a me che accoglie le preghiere di quest'anima, non va via, mi guarda dentro, non mi abbandona. Gela, dove ci sarà il debutto oggi di Salvatore Giuliano ad interpretare questo musical di Dino Scuderi, Giampiero Ingrassia. Buongiorno Giampiero. Buongiorno a tutti, come va? Bene, ho saputo che arrivare in Sicilia non è così facile, ma indipendentemente da questo, che cosa vuol dire interpretare per te Salvatore Giuliano? Ma a prescindere, tu dici proprio dal macello di gente che c'è. Beh, per me è un grandissimo ritorno, perché questo spettacolo l'ho interpretato 10 anni fa, proprio qui in Sicilia, a Taormina, a Palermo, a Messina, e lo riaffronto 10 anni dopo con una grande emozione che avevo anche 10 anni prima, perché è la storia di un uomo, l'ascesa e la discesa all'inferno di un personaggio siciliano, uno dei misteri ancora della nostra Italia, e insomma con un cast nuovo, soprattutto la cosa fondamentale, siamo rimasti soltanto io e Luca Notari del vecchio cast, ma è un cast di primissimo livello, e insomma siamo molto contenti di riproporlo, anche perché è uno spettacolo che un po' ha avuto una leggenda, quando abbiamo fatto 10 anni fa poi se ne è parlato, se ne continuava a parlare. Poi abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo avuto, in questo anche la Sicilia non è che ci ha aiutato moltissimo, eh? perché insomma è una cosa che un po' mi dispiace, perché è uno spettacolo che parla della Sicilia, di un personaggio siciliano che può essere scomodo o non scomodo, ma non importa. E insomma, però grazie al Rosario Coppolino, alla Mediterranea, insomma, siamo riusciti a rimetterlo in piedi e lo riproponiamo. Senti Giampiero, che effetto ti fa un Salvatore Giuliano oggi? Tu hai detto un personaggio controverso, però accusato della strage di Portella della Ginestra, è accusato di essere stato un indipendentista, che oggi però al limite va anche di moda. Beh, questo. Insomma, è accusato di vari crimini, insomma, interpreti poi quello che è stato poi, nel bene o nel male, comunque un assassino. Ma guarda, diciamo che questa è la storia di un uomo, principalmente. Salvatore Giuliano principalmente era un uomo che ha sbagliato probabilmente, ma noi non vogliamo giudicarlo, nel senso che comunque è la storia, come dicevo prima, è la nascita del bandito, è la sua ascesa. Salvatore Giuliano è stato messo in mezzo poi dallo Stato, dalla mafia, è un personaggio che finché serviva poi insomma è stato fatto cadere, è stato tradito dal suo migliore amico. Insomma, è un bellissimo romanzo, se vuoi, no? È la storia di un romanzo ed è quello che noi presentiamo. Poi, sai, Portella delle Ginestre, tutti gli omicidi commessi, certo, è un personaggio. Ma sai, va un po' anche di moda il fatto adesso di parlare di personaggi, vedi Vallanzasca, vedi nella banda della Magliana, insomma comunque di presentarli come se fosse un melodramma, un romanzo vero e proprio, in questo caso un romanzo con le musiche. Ecco, parliamo della messa in scena, queste sì. Musiche di Dino Scuderi. Bellissime, bellissime. Tu... In realtà il vero spettacolo sono le musiche. Tu canti? io sostengo che Salvatore Giuliano è un po' come Jesus Christ Superstar, cioè se tu prendi una chitarra e uno con un tamburello e fai Jesus Christ, lo ascolti, la stessa cosa secondo me è Salvatore Giuliano. Ma voi recitate però e cantate oppure è tutto cantato? No, è recitato e cantato. È cantato con le basi, però noi cantiamo rigorosamente dal vivo tutti quanti. Senti, ma tu l'anno scorso hai recitato Shakespeare, quest'anno Salvatore Giuliano, insomma la tua vita d'attore è abbastanza poliedrica. Ma insomma io ho cercato un po' di impostare la mia carriera così, perché io insomma, mi piace passare dal musical allo spettacolo brillante, alla commedia, Neil Simon, a Shakespeare, insomma. Secondo me un attore, se uno ha il privilegio di fare questo mestiere con la maiuscola, è anche questo, il fatto di cambiare, di cercare di trovare nuovi stimoli. E Salvatore Giuliano per me lo è, perché ripeto, lo affronto con 10 anni in più di esperienza, con 10 anni di vittorie, di sconfitte, di delusioni, quindi insomma c'è, dentro di me c'è molto di più che 10 anni fa, ma questo per un fatto anagrafico. Sì, ma invece quanto c'è di turiddu, cioè quanto c'è di sicilianità in te? Beh, in da me... affrontare Salvatore Giuliano? Insomma è un carattere ribelle. Una persona che amava il suo paese, amava la Sicilia, una persona che si fidava degli amici, che combatteva per un ideale, poi costretto poi a combattere, a essere cacciato, a essere inseguito, a essere definito un bandito, però penso che principalmente Salvatore Giuliano fosse un uomo che amava la propria terra e che combatteva proprio per migliorarla. È impossibile per voi andare all'estero? Cioè tu hai parlato di Jesus Christ Superstar, no? Ma magari, figo, guarda, questo secondo me è uno spettacolo che all'estero andrebbe fortissimo, perché tu pensa a fare questo spettacolo in Australia, in America, di quell'Italia, dell'Italia del dopoguerra, della fine della Seconda Guerra Mondiale, dell'ascesa... di un certo tipo di mafia. Io penso che il segreto appunto di Giuliano sia questo, il fatto che lui poi sia rimasto incastonato tra lo Stato e la mafia. Allora ricordiamo il musical di Dino Scuderi e aspettiamo, sì, a questo punto la versione, l'English version, con la versione? La versione inglese, l'English version. English version, yeah. Grazie Giampiero. Vi aspettiamo. Angelo mio. Come è cambiata l'aria se tu soltanto fossi qua. Sentiamo molto molto rumore perché sappiamo che i nostri attori stanno viaggiando da Roma a Catania perché devono arrivare a Gela, perché questa sera appunto c'è il debutto di Salvatore Giuliano in musical, e nei panni della sorella di Salvatore Giuliano c'è proprio Barbara Cola. Buongiorno Barbara. Buongiorno a voi. Siamo atterrati, sani e salvi. Sani e salvi. Allora, che effetto ti fa interpretare questo ruolo? Guarda, è una emozione grandissima perché il ruolo di Mariannina è un ruolo di una leonessa piena di temperamento che ha una cosa meravigliosa, che è l'amore per quel suo fratello fino alla morte proprio, e è una cosa che mi emoziona veramente tanto. In più, in un contesto come il Salvatore Giuliano, che non è proprio un musical, non ha un argomento da musical, ma è stato costruito in maniera così abile, musicalmente così bella, beh, non posso che dirti che mi sento veramente toccare il cielo con un dito. È bello cantare in un musical dove c'è tutto quello che è necessario perché le cose vadano bene, insomma. Senti, Barbara, che cosa vuol dire? Tu hai detto, dice, lei è una persona che ama Salvatore, no? Anche sì, per i suoi sbagli. Ecco, non è un po' difficile interpretare una persona che per amore non vede nemmeno più che cosa è il bene e cosa è il male? Ma diciamo che il personaggio di Salvatore Giuliano, sappiamo tutti quanto sia stato contrastato, ancora ci sono ombre, ma l'amore di questa sorella, a prescindere da quello che alla fine decide di fare Salvatore Giuliano, che ragiona a modo suo, ma diciamo che possiamo contestualizzare la presenza di Mariannina proprio con un amore fraterno importante, che addirittura diventa protettivo, diventa coraggioso. Quindi io non mi affianco a questa avventura con questo pensiero, perché Salvatore Giuliano può aver sbagliato, può non aver sbagliato, ma è un essere umano, un uomo che ha iniziato per fame a contrabbandare frumento e poi purtroppo è rimasto schiacciato da un meccanismo gigantesco, collusioni fra mafia e Stato. Insomma, è veramente una storia appassionante. E io la vedo veramente con lo sguardo del cuore, questa sorella di Salvatore Giuliano. Solo così. È la prima volta che la interpreti? È la prima volta che la interpreto, sì. È la prima volta ed è anche una prova per me importante, perché io ho iniziato col teatro, poi sono stata rapita dalla musica leggera, tra virgolette, e ogni tanto si ritorna al teatro, e questa volta in maniera veramente di grande qualità, perché io sono stata interprete per Tato Russo di due musical bellissimi, Promessi Sposi e Masaniello, e Dino Scuderi, il nostro incontro è proprio stato recente, in realtà nel 2006 già mi si parlò di questo Salvatore Giuliano, poi ebbe veramente delle vicissitudini difficili il musical. Questa volta ce l'abbiamo fatta, siamo in scena e siamo tutti veramente contentissimi, 18 artisti che ce la metteranno veramente tutta per fare una bella cosa. Ecco, tu dici, io sono in scena, è un musical, sì, non avrei difficoltà a cantare ovviamente, però indipendentemente da questo, tu hai detto, non è un musical perché poi il musical hanno magari il tema l'amore, no? Oppure... che non è un musical come quelli che si vedono in giro costantemente, è un argomento ben più profondo e ben più tagliente, difficile. Proprio per questo secondo me la gente dovrebbe essere incuriosita, perlomeno per venire a vedere che cosa è venuto fuori dal lavoro di Dino Scuderi, di Ingrid Lee, Palladino, insomma, e con il protagonista Gian Piero Ingrassia, che è una persona adorabile, io ho potuto conoscere in questo mese di lavoro. Sono veramente curiosa anch'io di vedere quello che potremo fare sul palco tutti insieme, quindi insomma... Mi dicono che c'era un po' di problema con questo accento, perché devi fare l'accento siciliano. Tu di dove sei? Io sono bolognese, sono nata a Bologna, sono terra emiliana. Beh, non lo so chi ti ha detto che c'era problema, diciamo che all'inizio, siccome io ho cantato in tante lingue dialettali, mi è capitato di collaborare anche con Andrea Parodi dei Tazenda in Sardegna, ho questa, diciamo così, peculiarità di... E l'accento viene con la passione che metto nel fare il personaggio. È chiaro che più si sta sopra questa questo colore e meglio forse verrà fuori questo accento siciliano. Non farò altro che farmi assecondare da quello che sento. Poi ci sarà qualcuno che dirà così, qualcuno che dirà sembra siciliana, non lo so. In qualche modo io ci ho lavorato sopra, quindi sono tranquilla. No, vabbè, ma io non dicevo problema, in senso, è chiaro, in senso lato c'è, no? Perché è una persona che interpreta. Senti, un ruolo che alla fine è proprio puramente teatrale, no? Perché è vero che questa sorella è veramente esistita, però che sia addirittura la coprotagonista di Salvatore Giuliano è un po' un azzardo. Beh, questo ruolo era stato costruito 10 anni fa per un artista che io ammiro molto, che è Tosca, ed è stato forse costruito forse sulle corde di un artista che era in quel momento assolutamente era giusto costruirlo, un personaggio del genere. Ho seguito semplicemente quello che era scritto precedentemente. Poi con la regia di Gian Piero Cicciò abbiamo visto che la nostra Marianina non aveva bisogno di altro che di quelle canzoni e di quei momenti recitati, non abbiamo aggiunto altro. Allora ringraziamo intanto, appunto, come abbiamo sentito, Barbara Cola, che si cimenterà in dialetto siciliano a Gela in questo debutto alle Mura Timolontee, che interpreterà il ruolo di Marianina Giuliano insieme a Gian Piero Ingrassia, che invece interpreta Salvatore Giuliano. Summer Time. E noi adesso andiamo a Sant'Arcangelo di Romagna, dove Francesca Zoccarato mette in scena diciamo così, uno spettacolo particolare, perché è l'unica donna in Italia a mettere in scena le marionette. Così, Francesca? Sì, più o meno. Faccio uno spettacolo di marionette a filo, che è una cosa, diciamo, tipica degli uomini, però io lo faccio sui pacchi perché, essendo una signorina, ho pensato di portare una ventata di femminilità nel teatro di figura. Ed è un varietà anni 20 con marionette a filo e il marionettista, in questo caso, che sono io, che però recita e fa un personaggio del varietà, per cui la presentatrice. Ecco, perché tu hai detto è una cosa soprattutto maschile? Perché di solito il mondo dei burattinai e dei marionettisti è un mondo di uomini. Poi, come dice Guido Ceronetti, le donne muovono meglio le marionette, però questo dice lui. Io ci credo, essendo però ecco, diciamo che è una prerogativa. Io non lo sapevo perché è più difficile, perché bisogna avere forza, per cui non c'è un motivo particolare. Non lo so, perché forse sì, però vabbè, per me era più congeniale, mettiamola così. Quindi poi, avendo un passato, diciamo, l'attrice, ho messo insieme in questo spettacolo le due cose e quindi recito insieme le mie marionette, per cui sono degli attori anche loro insieme a me e facciamo questo spettacolo anni 20 di interazione tra me, le marionette e il pubblico. È un omaggio a quell'epoca. Musicisti, cantanti, ballerine, sciantose e altri personaggi che danno vita a piccoli quadri musicali. Quindi ti rifai alla tradizione dell'avanspettacolo? Sì, del varietà e dell'avanspettacolo, è proprio quella tradizione lì, anche un modo per far conoscere ai bambini una tradizione che è italiana o comunque europea, che non conoscono più, delle musiche che non conoscono più. Ma è comunque uno spettacolo per tutti, perché comunque le marionette durate non è vero che sono solo cose per bambini, e quindi ho voluto proprio fare uno spettacolo per i piccini e per i grandi, dai 3 ai 99 anni. Ecco, che canzoni canti in questo show? Bene, io non canto, a parte un pezzettino, però sono musiche che vanno da Edith Piaf a Boris Vian, Cole Porter, pezzo del Triolescano. Sì, un omaggio a tutto quel mondo, ecco. tra gli anni 20 e gli anni 30. Poi c'è un omaggio a Fred Buscaglione, che è vero, degli anni 50, però anche lui si rifaceva a un periodo precedente, per cui c'è la parodia di Fred Buscaglione che fa se stesso cantando Whisky Facile. Senti, a proposito, tu hai detto uso i tacchi alti molto orgogliosamente, cosa vuol dire? Che tu stai in scena quante ore con questi tacchi? No, quanti centimetri? No. Quanti centimetri? Minuti. Quanti centimetri? 10. 50 sì. Minuti per 10 centimetri, insomma è un bel impegno. Perché ci tieni a fare queste rappresentazioni con i tacchi? No, no, in realtà non è che ci tengo, è una cosa che è nata abbastanza naturalmente, perché pensando a quel vestito, pensando a quegli anni, mi è venuto naturale cercare un paio di scarpe che avessero i tacchi. Poi in realtà dopo un anno e mezzo che lo facevo mi sono resa conto che probabilmente non era una buona idea per la mia schiena, per cui molto allenamento, però in realtà era... E poi questo spettacolo adesso ha una versione da teatro, però in realtà è uno spettacolo che è nato in strada, facendo il cappello appunto, questa bella abitudine che abbiamo in strada a fare cappello, quindi è nato lì e mi piaceva questa cosa di portare il teatro in strada, per cui far vedere che si può anche essere eleganti chiedendo cappello e stando in strada. E in un momento storico in cui le donne in Italia non è che siano proprio viste bene, volevo anche far vedere che una donna può anche essere elegante, avere l'età che non essere volgare, cosa che invece purtroppo spesso e volentieri non è visto così, però mi piaceva questa idea. Domanda squisitamente femminile, 10 centimetri con plateau o senza plateau? Senza, però aia! Il tacco è alto. Aia. Il tacco è largo, diciamo, per cui me la cavo così. Va bene. Ed è una buona pelle. Senti Francesca, le marionette le costruisci tu? Le marionette ho fatto io, bozzetti e i meccanismi, le ho dipinte, poi le ho fatte scolpire da un bravissimo scultore di Praga, perché il mio maestro abita vicino a Praga, la compagnia Carromato, e loro hanno questo amico che si chiama Jan, che scolpisce benissimo le marionette, è uno dei più bravi scultori di Praga di marionette, per cui ho dei piccoli capolavori, perché lui ha veramente rifatto proprio i disegni che avevo fatto io nel dettaglio, mi ha fatto delle vere opere d'arte. Allora ricordiamo Francesca Zoccarato con ben 10 centimetri di tacchi senza plateau, che è in scena per 50 minuti al Museo Etnografico di Sant'Arcangelo di Romagna con il suo Favole d'Agosto, varietà prestige, musiche, bozzetti, idee e quant'altro degli anni 20 e 30, giusto? Sì. La mia compagnia si chiama Teatro in Trambusto, siamo io e le mie marionette. Grazie, numerosa. Grazie Francesca, ciao ciao. Grazie a voi, buona giornata. E noi adesso andiamo sul mitico Monte Bianco a Courmayeur, dove si apre il Festival delle Nuove Vie fino al 20 agosto. Il direttore artistico è Cesare Bieler. Buongiorno Cesare, di che cosa si tratta? Buongiorno, si tratta di un mix esplosivo di scrittori, alpinisti, giornalisti, musicisti che per 3 giorni si trovano non sul Monte Bianco, perché sarebbe un po' troppo complicato, come potete immaginare, ma nel bellissimo scenario di Courmayeur, per parlare di letteratura, musica, libri, attualità e quant'altro. Allora, andiamo con questa sera. Questa sera aprite con... In realtà abbiamo aperto alle 11 questa mattina con lo scrittore francese Philippe Claudel, che è anche regista, ha fatto l'ultimo film con Stefano Accorsi e Neri Marcoré, che ci ha spiegato come si può raccontare la montagna e l'alpinismo oggi, quando i mezzi di comunicazione hanno abolito tutte le distanze e ci fanno vivere le imprese in diretta. La giornata è carica di altri appuntamenti e chiudiamo poi alle 21, il primo giorno del festival, con lo strepitoso concerto del pianista jazz Cesare Picco, che incanterà Courmayeur e tutti i suoi ospiti. E poi si prosegue nei prossimi giorni con Paolo Giordano, Beppe Severnini, Aldo Cazzullo, Sandra Petrignani e tanti altri ospiti. Allora, il tema però è sempre la montagna, no? Il tema non è solo la montagna, no. È la volontà di trovare nuove vie in montagna e altrove, cioè di non fare un festival che replichi i numerosi festival festival di successo che si svolgono in tutta Italia, festival di letteratura, festival di attualità, ma di fare un mix inedito e diverso che proponga agli ospiti la possibilità di dialogare direttamente con gli autori e di trovare insieme queste che chiamiamo le nuove vie del Monte Bianco. Le nuove vie del Monte Bianco, però ecco, io poi vedo Beppe Severnini che parla con la pancia degli italiani, poi Enrico Cammani e Daniel Olivier Anouk, l'amico delle nevi. Sì, quindi è veramente un mix tra attualità, letteratura, musica. Si parlerà delle storie valdostane, di questa bellissima storia del cane della Guardia di Finanza di Courmayeur che va a salvare le vittime della neve, della valanga, quindi anche la responsabilità di chi va in montagna, e ovviamente l'attualità di questi giorni con Beppe Severnini che fa tappa anche a Courmayeur con il suo Pancia Tour, questo libro di grande successo che ha appena pubblicato alcuni mesi fa, appunto nella pancia degli italiani. Ecco Cesare, io approfitto di te che ovviamente vivi questa realtà della montagna, no? Per chiederti perché ci sono questi incidenti, perché purtroppo noi assistiamo sempre a queste vittime della montagna, quali sono i consigli, anche i buoni propositi che uno deve avere quando affronta una camminata? Beh, ci vuole un maggior senso individuale di responsabilità, per cui non si va in montagna in sandali. Io vedo tante persone in questo periodo che sono in giro per rifugi con dei sandali che si usano nelle spiagge. C'è anche, bisogna dirlo, un elemento di fatalità, perché il numero di persone che in questo periodo frequenta la montagna, purtroppo gli incidenti avvengono un po' dappertutto. Però è importante affidarsi ai professionisti della montagna, alle guide in estate, ai maestri di sci, e andare in montagna con chi conosce la montagna e sa leggere le condizioni della montagna, del tempo, della neve, e non andare in montagna da soli cercando guai che non sono necessari e si possono benissimo evitare. Quindi tu dici che la maggior parte degli incidenti è dovuta a distrazione, cioè come questa cosa dei sandali, perché pure i bambini sanno che in montagna si va con le scarpe da montagna, con le pedule. Ovviamente ci sono anche condizioni imprevedibili della montagna che non dipendono da nessuno, per cui il fatto di andare in montagna ha già di per sé un elemento di rischio, però questo elemento di rischio può essere compensato con un comportamento più responsabile, sapendo quando si va in montagna, se ci sono le condizioni adeguate per andare in montagna e non andare in montagna così semplicemente perché si vuole passare qualche ora magari sfidando un po' l'impossibile. Insomma, andare sul Monte Bianco non è pericoloso come andare sull'Everest, però è sempre pericoloso. E bisogna poi andare con una guida alpina ed essere sufficientemente allenati. È sufficiente, ecco, perché io vedo molti incidenti, per esempio, avvengono per lo sci alpino, no? Di alpinismo, cioè quello fuori pista, no? E purtroppo nello sci alpinismo c'è questo elemento imprevedibile che è quello delle valanghe, su cui effettivamente possiamo fare poco, perché lo sappiamo che le valanghe, come qualsiasi fenomeno naturale, hanno i loro tempi e i modi in cui si manifestano. Quindi abbiamo sentito, insomma, abbiamo approfittato del tuo intervento qui a Summertime per parlare un pochino, ci incuriosiva, no? Capire perché molto spesso si sente parlare di queste vittime in montagna. Allora noi ricordiamo però che invece per vivere la montagna e per trovare anche delle nuove vie in montagna e altrove, come ci ha detto Cesare Bieler, c'è il Festival delle Nuove Vie che si apre a Courmayeur e molti ospiti, un festival che unisce, a quanto ho capito, letteratura, musica e anche storie di vita montanara. Grazie Cesare. Ovviamente anche qualche degustazione di prodotti tipici valdostani. Ripetiamo a Courmayeur. Ah, quindi anche il formaggio, mamma mia. Va bene, quindi tutti a Courmayeur. Grazie Cesare. Grazie mille. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.